Radio. My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Siamo? Ready. Benvenuti lunedì 12 gennaio, Ragnar Pfizer come tutti i lunedì. Ci abbiamo un monte di musica da farvi sentire stasera, quindi rapidi proprio così con le segnalazioni eccetera. In apertura una roba che riguarda un nostro compare. Sul sito di un altro di altri nostri compari. Allora, se andate su strettoblaster.com c'è l'ultimo Blast Podcast, numero 81, realizzato da Quiroga. Quiroga si chiama Quiroga in Lamaro, cioè Lamaro si chiama il mix. Ancora non l'ho sentito, nonostante l'ho visto l'altro giorno, non ci ho ancora avuto tempo di sentirlo, però, no? Classici, fra produzioni release swing e classici del funk, soul e tutto ciò che gli gira intorno. Comunque, ascolto consigliato, così a busta chiusa, sì. Conoscendo il gusto del caro Quiroga. Detto ciò, facciamo andare Duccio e poi ci riaggiorniamo fra una ventina di minuti. Lascia mulher pro frisco turada. Ti non sa Piace un po' entrare così a mezzo, so. Che si deve fare? E comunque a proposito della purtroppo scomparsa di Pino Daniele e che mi ha ispirato un po' a questa selezione, diciamo, partenopea, no? Partenopea, sì, di un certo giro di musicisti napoletani, volevo ricordare di un beat tape che uscì a marzo dell'anno scorso e del quale avevamo già parlato e avevamo suonato qualche pezzo. Comunque, insomma, lo ricordiamo, visto che appunto è un beat tape fatto da tutta una serie di artisti, di beatmaker napoletani e non, visto che c'è anche Captain Futuro, ovvero ESA, che contiene tutti i beat fatti campionando musica di Pino Daniele, e si chiama Un uomo in beat e lo trovate su norulelabel.bandcamp.com, scritto norulelabel.bandcamp.com. e sempre di beat tape ispirati alla musica di Pino Daniele, invece molto più fresco, visto che è uscito il 5 gennaio di quest'anno, quindi proprio imminente, fatto di ispirazione proprio dopo la triste notizia, si chiama Quando EP Pino Daniele Tribute ed è fatto da GSQ, che salutiamo, sì, e lo trovate sul suo Bandcamp, gsqmusic.bandcamp.com. e per quanto riguarda, diciamo, Napoli, ricordiamo, cioè, se non l'avete già sentito, che l'ultimo podcast di Stretto Blaster è a cura del Di Chiroga, sì, detto l'avete già detto prima. Ah, ok, infatti non vedevo più qua il link. È perché l'ho tolto io. Ok, perfetto. Ditemelo questa cosa. Così è il bello della diretta. È il bello della diretta. Ok, lasciamo andare Colossius e ci risentiamo più tardi. Bye. do it, and I started to like really get up in it, and I started to learn about other artists, you know what I mean? Because when I first started rapping, like, my knowledge was very like short, you know, like I knew like all the big rappers like Jay-Z, Kanye West, Lil Wayne, and stuff like that. And but then I started finding out about all these other girls, you know, like the Amanda Blanks. Like now that's when I first started rapping, like when it's like Amanda Blank, his sister, MIA, Santi Gold. Like that was like. Thank you. Selezione monotematica. Monotematica. Ah, è suonata tutta roba di Grill, giusto? Sì, sì, in occasione, cioè, sfruttando il fatto che è uscito questi suoi nuovi beat tape, secondo me molto interessanti, si chiamano Everyday volume 1 e volume 2, li trovate sul suo Bandcamp. grillo.bandcamp.com. E ne ho approfittato anche per suonare un paio di tracce che ci aveva regalato in occasione del suo beat a confronto che ha fatto, esatto, per il nostro blog. Lo potete trovare, il beat a confronto volume 7 a cura di Grillo, lo potete trovare su ragnampaisa.net, chiaramente cliccando su release. Ci sono tutti i beat a confronto, se non ce l'avete andate a recuperarveli tutti comunque. E più quello... che altro andate a sentirvi il nuovo lavoro sul suo Bandcamp, che, esatto, sì, merita, che è veramente Everyday volume 1 e volume 2. grillo.bandcamp.com. Velocissimamente volevo ricordare che questo sabato, ovvero il 17 gennaio, ci sarà live Gammon alla Flog per il tour di Orchidee, il suo ultimo album, quindi live con la band. Beh, venite a sentirlo. Lasciamo andare Tommy, rimanete con noi fino alle 22:30 e noi ci risentiamo lunedì prossimo. This is called Sex Education Ghetto Style. I was doing it when I was a colored boy of 8 or 9 or 10. I had never heard of Sigmund Freud, but hell, I was doing it then. I was doing it in my teenage years when I was running the ghetto streets. Now, I had never seen me no ink blot test, but it still felt good to me. I was doing it when I arrived in college, searching for my degree. But Lord knows a degree wasn't all I got, and that's the way it's supposed to be. Oh. Thank you. good last night. Last night changed it all. Take a little time, come and see, prove me.